Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Ritengo che su 100 interventi che gli ascoltatori fanno alla vostra radio, solo un 10-15% faccia affermazioni interessanti che vanno oltre all'ovvio e che non mescolano in modo confuso idee, principi, stereotipi o semplici opinioni sui fatti. Quello però che mi stupisce maggiormente sono due affermazioni che emergono quasi di continuo, magari in salse diverse, ma sostanzialmente la stessa cosa. La prima riguarda l'affermazione del «perché l'Italia non è un paese normale», mentre la seconda riguarda un atteggiamento di critica diffuso verso la classe dirigente del paese circa la loro inadeguatezza, incapacità, immoralità, eccetera, come se noi fossimo estranei da tutto ciò o come se qualcun altro abbia eletto i governi. Io mi considero piuttosto fortunato ad aver vissuto, e non come un turista, in tre paesi diversi in Europa per lunghi periodi. Sono nato ad Atene, a circa 18 anni mi sono trasferito a Londra e a circa 28 anni mi sono trasferito a Treviso, dove vivo tuttora. Ho 42 anni adesso. Vivere in un paese diverso da quello dove sei nato e cresciuto ti fa aprire i propri orizzonti mentali su com'è la vita altrove e ti permette di fare dei confronti, se mai questo fosse utile, più realistici. Ma cosa mai significa «perché non siamo un paese normale»? Ma cosa mai significa «i nostri politici sono tutti immorali, indecenti, incapaci»? A volte lo trovo divertente e a volte deprimente. Ma chi li ha eletti quei politici? Gli alieni? Chi? Il paese? Non siamo mica tutti noi. Su questo argomento c'è un'interessante somiglianza con i greci e un'altrettanta dissomiglianza con gli inglesi. Non sono un sociologo, ma credo che affermazioni del genere hanno origine nel fatto che le persone che popolano il sud d'Europa, almeno rispetto ai suoi cugini nordici, tentano di dissociarsi dal gruppo dove vivono pensando sostanzialmente che sono più bravi, più capaci e più competenti degli altri dello stesso gruppo. Credo che gli inglesi, in genere, abbiano a volte atteggiamenti dispregiativi verso altri popoli, ma non verso il proprio, il che però non significa che non siano molto critici verso se stessi. Io non sono nato in Italia, ma vivo qui ormai da 14 anni e so quindi che l'Italia è un paese profondamente diviso, ma non in latitudini o regioni. L'Italia è un paese diviso in 60 milioni di Italie, dove ognuno la pensa nel modo proprio. Siamo tutti molto bravi a fare critiche a chi ci dirige senza rendersi conto che questo significa fare critica a noi stessi. Se la maggioranza degli italiani ritiene di subire le pene dell'inferno dalla sua classe dirigente, destra o sinistra che sia, significa che ci stiamo auto-umiliando, dichiarando in modo aperto che siamo incapaci a cambiare lo stato delle cose. Così come penserebbe un cittadino di qualunque paese del terzo mondo per il suo governo, che magari ha preso il potere con le armi. Poi la cosa ridicola è che una buona parte degli italiani predica e poi in privato fa esattamente il contrario di ciò che predica. Tutti ci lamentiamo, tutti facciamo critiche a tutti, ma alla fin fine ci piace essere così. Accettiamo allora il fatto. Siamo così e ci piace essere così. Altrimenti, se non ci va di essere così, dobbiamo cambiare, ma prima noi. I politici sono la conseguenza, non la causa. E mi chiedo, abbiamo la volontà e la capacità di cambiare? Dario. Per qualche settimana non abbiamo che ricevuto inviti a consumare, a mangiare, a bere, a ingurgitare il più possibile, con aggiornamenti delle quantità vendute ogni sera, con statistiche e sondaggi dell'ultimo secondo, la corsa ai regali e poi la corsa ai cenoni, ora la corsa ai saldi. Tutti atleti, tutti col portafoglio in mano, pronti a spendere in cibo che non ci serve, in calorie superflue, in dolcetti che ci facciano scordare i problemi, in vestiti che ci creano sensi di colpa e problemi di spazio. Osservo in TV le file assurde davanti ai negozi delle grandi firme e penso ai messaggi di alcuni esponenti politici che ci raccontano di un'Italia povera, disperata, che non sa cosa mettere nel piatto dei propri figli. Sento che le agenzie di viaggi non hanno più la possibilità di accontentare i clienti per il tutto esaurito. In montagna le piste da sci sono affollatissime e nei supermercati la merce straripa dai banconi e i carrelli straripano pure di qualsiasi specialità. Meno male che c'è la crisi e che i dietologi ora dovranno darsi un bel da fare ad insegnarci come perdere i chili che ci ritroviamo magicamente aggrappati alle nostre pance vuote. Giulia. Da quanto ho appreso, pare sia più facile prendere un aereo che comprare un biglietto per entrare in uno stadio italiano per assistere a una partita di calcio. Biglietto elettronico? Scordatevelo. Fotocopia di un documento di riconoscimento? Al momento dell'acquisto è impossibile. Anche se poi ai tornelli ti chiedono il documento originale. E ho detto tornelli, non banche di accettazione. Passaporto? Non utilizzabile, perché non riporta la residenza. Così chi non vive nella città dove si svolge la partita o nella provincia non può acquistare il biglietto. Inoltre, in alcuni casi, è impossibile comprare il biglietto 24 ore prima della partita. Il last minute è inesistente nel mondo del calcio. E sarà ancora peggio in futuro con la carta del tifoso voluta dal ministro Maroni. Agostino. Sono del tutto in linea con le analisi emerse alla vostra radio riguardo a quei genitori spettatori che assistono alle partite di calcio dei propri figli. Gli episodi che salgono agli onori delle cronache, risse sugli spalti, incitamenti plateali alla violenza o alla scorrettezza, non sono purtroppo schegge impazzite o casi isolati, ma piuttosto costituiscono la parte più eclatante e visibile, le classiche punte dell'iceberg, di una degenerazione in corso, fatta di tanti atteggiamenti e comportamenti meno censurabili che non fanno cronaca, ma fanno tendenza, nel senso che rendono plausibili, giustificati o ancor più approvati modi di fare che qualche tempo fa non avrebbero trovato né connivenze né tantomeno consensi. Mi sembra anche di vedere sul fronte delle società di calcio una forte preponderanza di soggetti che non hanno per niente in testa il valore del capitale sociale che hanno generato strutturando un settore giovanile. In molti casi, la considerazione che ne hanno è quella di un giocattolo messo in piedi per trarne delle soddisfazioni personali, grazie a risultati agonistici vincenti. Non mancano certo anche situazioni normali, e di questi tempi quanto ci basterebbe la normalità. Ci sono zone franche e qualche raro caso di eccellenza che il più delle volte nasce dall'intuizione di qualche singolo, allenatore, genitore o squadra. E proprio qui credo ci possa essere qualche possibilità di creare movimenti in controtendenza. Se però questa impresa viene lasciata ai singoli, le probabilità di estendere i successi ed esportare un modello in altri contesti sono praticamente nulle. Ma se si riesce a unire le risorse, finalizzare congiuntamente gli sforzi e, come si usa dire, fare sistema o fare squadra, concetto questo che dovrebbe essere molto familiare a chi è impegnato nell'ambiente calcio, qualche possibilità generativa la possiamo avere. Il tentativo può allora essere quello di chiamare a raccolta tutti coloro che sono più o meno direttamente coinvolti all'interno di una proposta sportiva che si rivolga a minorenni. I ragazzi che praticano lo sport, le loro famiglie, le società sportive, allenatori, accompagnatori, dirigenti, l'amministrazione comunale, che oltre ad essere direttamente responsabile della tutela e della crescita dei giovani, spesso supporta consistentemente le società sportive, mettendo a disposizione strutture, denaro, benefit di vario genere. Cosa può spingere questi diversi soggetti ad unirsi e ad investire in questa impresa? La consapevolezza che lo sport giovanile è spazio e occasione fenomenale di crescita, non solo fisica, ma anche e soprattutto psicologica e sociale. È esperienza a forte valenza educativa che, oltre ad accompagnare molto positivamente, ma anche negativamente, il processo di crescita di tutti i ragazzi che vi si impegnano, è in grado di supportare la funzione genitoriale delle famiglie coinvolte, in alcuni casi anche solo interrogandola, far emergere e valorizzare la funzione sociale che in ogni comunità locale può potenzialmente svolgere ogni società sportiva di qualsiasi disciplina. Dare visibilità e consistenza all'importante ruolo che le amministrazioni comunali possono avere quali promotrici o sostenitrici di politiche educative in grado di agire sinergicamente in modo trasversale nei diversi mondi vitali attraversati dalle giovani generazioni, come famiglie, scuole, oratori, società sportive, mondo del volontariato, eccetera. Il percorso possibile non è né rapido, occorre una programmazione pluriennale, né semplice. I diversi livelli in gioco ne definiscono la complessità. Occorre dare forma a pensieri e significati condivisi, a obiettivi comuni, a precisi impegni sottoscritti da tutti, a modalità di comportamento coerenti che gradualmente contaminino tempi e spazi propri di tutti i soggetti coinvolti, alla convinzione diffusa che da questo sforzo comune ognuno ci guadagna qualcosa e tutti stanno meglio. Il progetto avviato nel 2008, partito dall'assessorato alle politiche educative, ha iniziato a coinvolgere le principali società sportive con settori giovanili, calcio e pallavolo, e ha messo in campo iniziative formative con genitori e allenatori, gruppi di lavoro sull'alleanza educativa fra famiglie e società sportive, momenti di confronto con i presidenti delle società. Erano in fase di elaborazione laboratori formativi per i ragazzi, impegni reciproci fra famiglie e società che mettessero al centro il valore della persona, un codice di comportamento per gli spettatori delle partite da presentare anche ai tifosi delle squadre che sarebbero state ospitate. E altro sarebbe sicuramente bollito in pentola quando nel 2009 le elezioni amministrative hanno gelato i germogli in crescita, e sicché era giugno, e il progetto è attualmente, diciamo, in stand-by. Ma al di là di questo infausto esito locale, mi sembra che il pezzo di strada che abbiamo provato a fare sia percorribile e possa potenzialmente portare a risultati interessanti. Lettera firmata. È comune pensare, dall'avvento di Internet, che musica, cinema e cultura in generale debba essere usufruibile in modo gratuito, perché bene dell'intera umanità. Concetto e affermazione giusta, in quanto utopia, ma erratissima nella concretezza della vita dell'opinione pubblica. L'opinione pubblica, in senso occidentale, cioè anglosassone, è alla base della democrazia occidentale che, per quanto imperfetta e piena di ingiustizie, rimane l'unico sistema di convivenza civile che ci garantisca quel minimo di libertà d'espressione di cui disponiamo. Ciò mi sembra, usando un minimo di buonsenso, il minimo che si possa affermare senza timor di smentita. Però, che piaccia o meno, l'architrave di ciò è il commercio culturale, quindi la vendita dei prodotti culturali attraverso i diritti d'autore. La libertà culturale di un paese vive quando il pubblico, che coincide con i cittadini, con diritti civili e politici, di un sistema istituzionale, compra l'informazione e la cultura in generale. Questo sistema, lo ripeto, è imperfetto e pieno di scompensi ingiusti, ma rimane fino ad ora l'unico meccanismo che ci ha garantito la libertà d'espressione minima. I diritti d'autore, la remunerazione grazie a cui vivono i liberi professionisti dell'informazione e della cultura, è anche la loro unica garanzia di libertà d'espressione. Il pubblico deve rimanere il loro unico, o meglio dire, prevalente datore di lavoro, un datore di lavoro che li premia comprando o meno il loro prodotto. L'idea malsana diffusa, anche grazie ad Internet, che la cultura debba essere gratis, ha in sé il germe della fine del sistema democratico. Uccidendo il mercato della cultura in breve tempo, questa si dovrà far finanziare dai mecenati di turno. Ciò vincolerà la cultura al potente di turno, che è la negazione della libera espressione degli uomini di cultura. Questo vale per ogni forma espressiva. La storia ce lo insegna. Dove non c'è mercato culturale, vi è una cultura serva in ogni sua forma del potere, quindi non libera. Parlare di riformare il sistema dei diritti d'autore o limitare le lobby che vi si annidano alle spalle è un discorso. Affermare con populismo fintamente egualitario che debba essere gratis è un'idiozia pericolosissima. Bisognerebbe cercare di rendere accessibile a tutti i meritevoli, cioè a tutti i cittadini che dimostrano con l'impegno di voler usufruire della cultura per una gratificazione personale o una valorizzazione personale. Ma ammantare, come fanno molti politici nostrani, con affermazioni di causa giusta, la volontà di rendere usufruibile tutta la cultura in maniera gratuita a tutti, rende questi nuovi populisti dei killer della libera espressione. Libero mercato dell'editoria significa libertà d'espressione. L'unico datore di lavoro degli uomini di cultura, in qualsivoglia espressione culturale si esprimano, deve rimanere il libero mercato. I diritti d'autore ci garantiscono la libertà. Il gratis ha in sé il germe che porta alla morte della libera espressione. In democrazia non si sceglie mai ciò che si vorrebbe, ma il male minore. La frase di Cavour è la stella polare di ciò. Alla peggior camera preferisco la miglior anticamera. La libertà la si compra con sacrifici, compromessi e anche libero mercato. Scordarlo significa uccidere la libertà d'espressione. Massimiliano. Caro direttore, mancano 3 mesi, ma ormai da settimane si parla delle candidature alle elezioni regionali di fine marzo. Non vorrei entrare nel merito delle singole persone che verranno proposte dai partiti, ma non le sembra che molti giochi e molte alleanze vengano fatte sulle spalle degli elettori, quasi dividendosi il consenso prima che questo venga espresso dai cittadini? Alessandra. Cara Alessandra, l'impressione che il 28 e 29 marzo si possa essere chiamati semplicemente a ratificare le decisioni prese dai partiti è molto forte. Soprattutto al nord, dove le presidenze regionali del Piemonte, della Lombardia, del Veneto sono state decise a tavolino, come in una partita a scacchi giocata dalla Lega e da Forza Italia, in pratica da Bossi e da Berlusconi. Può darsi che le soluzioni migliori alla fine possano nascere con gli strumenti peggiori, ma bisogna stare attenti a giocare con la democrazia. Svuotare di contenuti il voto dei cittadini è terribilmente rischioso, perché rischia di affievolire quel rapporto importantissimo di riconoscimento reciproco tra i cittadini e lo Stato. Le nomine calate dall'alto sono l'esatto contrario di una vera democrazia, anche se queste nomine, come il caso della Lombardia, rispecchiano il sostanziale giudizio positivo dei cittadini, che comunque hanno, per fortuna, l'ultima parola. A chi interessa la famiglia? Me lo sono chiesto dopo aver vissuto la calorosa esperienza dell'incontro europeo delle famiglie a Madrid. La capitale spagnola, nella gelida mattinata di domenica 27 dicembre, ha accolto 1 milione di persone, componenti famiglie provenienti da tutta Europa, 10.000 solo dall'Italia, a sostegno della famiglia. Ma ai media, evidentemente, questa notizia non interessa. Io, infatti, ho potuto vivere questo avvenimento per mezzo dell'unica televisione interessata ad esso, e cioè Telepace. Essendo piuttosto scettico sul fatto che qualche TV trasmettesse l'evento, avevo seguito la prima parte dell'incontro dal collegamento via internet con Radio Maria Spagna. Da quanto detto sopra posso arguire che il bene e la solidità della famiglia stia a cuore solo ai soliti oscurantisti e retrogradi cattolici. I grandi giornali italiani hanno dato ben poco risalto all'evento. Non voglio essere troppo malizioso, ma se si fosse trattato di un incontro anche meno partecipato per l'orgoglio gay o contro l'omofobia, lo avremmo certamente saputo. Questo la dice lunga su quale sia l'interesse della cultura dominante per la cellula fondamentale della società, che è la famiglia. Ma non ci rendiamo conto che se crolla la famiglia, crolla la società? Probabilmente no. Eppure questa gioiosa manifestazione di fede in Dio e nella famiglia è un segno positivo, che fa sperare nel futuro. Claudio, Trento. Caro Claudio, la famiglia non è certo in primo piano degli interessi dei giornalisti, dei politici, dei cosiddetti uomini di cultura. Soprattutto la famiglia normale, regolarmente sposata, con 2 o più figli, non fa notizia, non suscita interesse o curiosità. Da un certo profilo questo è un bene, vuol dire che la famiglia normale è ancora un fenomeno di massa, un valore largamente condiviso e che quindi non viene messa in discussione. Ma ugualmente, la famiglia della nostra società corre dei grossi rischi perché la politica se ne occupa troppo poco. Il fisco non la protegge, le strutture pubbliche non l'aiutano. Solo un dato, in Italia il numero dei posti negli asili nido è uno dei più bassi d'Europa e un po' anche per questo motivo il tasso di natalità è anch'esso tra i più bassi d'Europa. In compenso, l'età media in cui i giovani escono dalla famiglia o si sposano è una delle più alte. Sono dati che devono far riflettere. La vecchia famiglia è ancora un grande valore. Il vero problema è che rischiano di essere sempre meno un valore le nuove famiglie, quelle che fanno sempre più fatica a formarsi e a restare unite. Ritengo che la motivazione per cui Ryanair va via dall'Italia non sia affatto quella che è stata resa pubblica. La storia dei documenti è talmente assurda che è impossibile sia vera. Probabilmente la realtà è un'altra. Magari c'è l'intenzione di premiare questi imprenditori che hanno acquistato, si fa per dire, Alitalia. Considero l'operazione di vendita di Alitalia uno dei più grossi ladrocini che siano avvenuti nella storia dell'Italia repubblicana. Aver diviso Alitalia in bad e good company, aver venduto, si fa per dire, la parte buona Alitalia a dei signori dopo aver fatto valutare il patrimonio alla Banca Leonardo, i cui maggiori azionisti sono, ma guarda un po', gli stessi acquirenti di Alitalia, ovvero Benetton, sono cose che nemmeno in una repubblica delle banane possono succedere. La bad company poi ce la paghiamo noi, 180 euro a testa. Incredibile. Non dubito affatto che i prezzi stracciati che Ryanair applica non vadano a scapito della sicurezza, ma certamente sono il risultato di uno sfruttamento terribile che l'azienda applica nei confronti dei suoi lavoratori, soprattutto su quelli provenienti dall'est europeo, che sono i più deboli e i più ricattabili. Siccome questa gente è fatta di sangue e di carne, il loro sfruttamento andrebbe denunciato. Invece, silenzio assoluto. Lettera firmata. Egregio direttore, qualche giorno fa ho letto due notizie legate alla finanziaria 2010 che sembravano non attinenti fra loro, ma che invece sono un chiaro indicatore della politica di chi ci governa. Con il 2010 viene cancellata un'istituzione pensata per i cittadini e al servizio dei cittadini. Mi riferisco al difensore civico comunale, un'istituzione presente sin dal 1990 a difesa dei possibili soprusi che l'amministrazione pubblica potrebbe commettere, anche senza alcuna intenzione vessatoria nei confronti del singolo cittadino. Per risparmiare qualche euro, questa figura professionale di sicura utilità, utilizzata soprattutto dai cittadini meno abbienti, viene cancellata dalla finanziaria del 2010. Viceversa, vengono mantenuti in vita tutti quegli enti noti oramai da anni come enti inutili che questo governo, come tutti quelli che l'hanno preceduto, aveva promesso di disboscare. Questi enti costano al contribuente la bellezza di 415 milioni di euro ogni anno. Quindi anche questa volta, per ragioni di bilancio, viene tolto un servizio utile ai cittadini, ma si mantengono sulle nostre spalle quegli enti che non hanno più nessuna ragione di esistere, se non quella di assicurare uno stipendio ad amici di partito e sostenitori che per varie ragioni non hanno potuto essere eletti o avere cariche pubbliche più appaganti. Nonostante tante belle parole e tanti discorsi di riforme, i fatti dimostrano che l'attuale governo si sta comportando esattamente come tutti quelli che l'hanno preceduto. Forte con i deboli e con chi ha scarso peso elettorale e molto, molto comprensivo, invece, con amici e sostenitori, ai quali non si è potuto assicurare un posto migliore. La classe politica di questo paese, anziché essere al servizio dei cittadini, è al servizio di chi governa. Passano i governi di destra, di centro, di sinistra, ma l'italica furbizia, a spese di Pantalone, è lungi dall'essere sconfitta. Andrea. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.